Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Filippo Oreggi in regia, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Ultima puntata ufficiale, diciamo così, di Palla Spicchi per questa stagione, ma terremo per tutta l'estate ovviamente un'ampia pagina di basket ad aprire a Tempo di Sport del venerdì, giusto per non perdere il filo. Basket che comunque rimane in cima ai nostri pensieri, alle nostre preferenze sportive ogni giorno, anche perché a Tempo di Sport non va in vacanza per tutta l'estate, in vacanza ci andrà Coach, credo. Coach Dan Peterson, ciao, buongiorno. Ragazzi, ciao ragazzi, amici sportivi, buongiorno a tutti. È tornato a trovarci per quest'ultima puntata, un graditissimo ritorno, Marco Crespi, allenatore di Casale Monferrato. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Grazie per essere tornato con noi a commentare questi giorni del basket che sono un po' difficili. Giorni delle liti, della tensioni, della confusione, anche delle contraddizioni, che sappiamo della disputa in atto tra presidente della Lega di Serie A Valentino Renzi, Dino Meneghina e la FIP, la decisione della Lega di bloccare i campionati, di organizzare un campionato giovanile parallelo. Dall'altra parte invece si rifiutano i giovani alle nazionali e ritorsione piuttosto discutibile, e infatti tra poco ne discuteremo, e si firma il rinnovo dei contratti del contratto televisivo con Sky, ma per far vedere cosa? Campionato giovanile parallelo, non lo so, ci capisco poco. Coach, che ne dici? Guarda, hai fatto la fotografia. Innanzitutto Marco, ciao. Marco, buongiorno Coach. Io prendo tutti i meriti per tutti, perché Marco è stato nel nostro settore giovanile come allenatore quando c'ero io, sì, coach dell'Olimpia Milano, e quindi ovviamente lo seguo attentamente la carriera. Ovviamente io sono in Italia dal 73, questa è la fine del mio 36esimo anno in Italia, e non so cosa ne pensa Marco, ma io non ricordo mai una situazione così, usa la parola pericolosa, come la situazione adesso. Cioè, io non so, magari sto esagerando per la paura di vedere le cose andare male, perché io sono come tutti, voglio vedere la basket italiana andare bene, ma cioè, loro possono far saltare la federazione, il CONI deve intervenire, il campionato, cioè, sembra la guerra termonucleare, e ovviamente non mi piace. Vorrei vedere una soluzione della cosa al più presto possibile. Io purtroppo però temo il peggio. Ho già visto il peggio quando è venuto Pieraccione come presidente, poi è saltato tutte le cose. Stiamo già vivendo momenti non felici, la nazionale in difficoltà, deve battere la Francia per andare agli europei, e chissà cosa succede dopo. I club fanno fatica, tranne Siena. Cioè, e poi questo, cioè, in cima a tutto abbiamo questa situazione qui. Io non sono ottimista questa volta. Marco, tu cosa ne pensi? Ma io sono forse più ottimista. Io credo che l'importante è fissare degli obiettivi. Quando ci sono chiarezza di obiettivi da una parte o dall'altra, anche arrivare a momenti di scontro può essere positivo. La mia perplessità è che ci siano dei veri obiettivi. Io credo che il primo obiettivo in questo momento, c'è una crisi economica mondiale, è cercare di far sì che un settore professionistico possa continuare. Credo che il settore professionistico sia il motore della pallacanestro ad ogni livello, in Italia, in ogni altro paese europeo, nell'NBA. Credo che la nazionale sia qualcosa che dà appeal, ma se non è sostenuta da una frequentazione per 9 mesi dei palazzetti, la nazionale rimane una bolla di sapone. Penso che bisogna chiarirsi bene cosa si vuole fare e non cercare di strappare la giacchetta per ottenere un europeo FIBA o un europeo comunità europea in più o meno. Credo meglio chiariamoci gli obiettivi e poi arriviamo anche a uno scontro e finalmente ci sarà il raggiungimento di un obiettivo. Cosa ne pensi, Coach? Posso fare un altro intervento? Certo, io? Come no? Allora, io, un po' di mio pessimismo è da questo. Sono americano, seguo lo sport americano. Noi abbiamo avuto situazioni tragiche nel baseball, per esempio. Nel 94 non si è disputata la Serie Mondiale. Ridicolo, come dire, non so neanche dire, in Italia non è neanche paragonabile, ok? La Serie Mondiale di baseball per lo sciopero. Altri scioperi di baseball hanno avuto 3 o 4. Basket, l'NBA, ricordo Marco benissimo, c'era Mike D'Antoni a Denver come allenatore, hanno giocato 50 partite a partire dal primo gennaio. Hockey è saltato tutta una stagione. Io ne ho visto, cioè, football NFL ha avuto un anno in cui tutti i giocatori dell'NFL, tutti, non hanno giocato, e le squadre hanno giocato le prime 3 partite con giocatori presi proprio dalla strada, ok? Quindi la gente dice, ah, in America va tutto bene. No, in America abbiamo anche avuto dei problemi. Figurati se l'America riesce a sopravvivere queste qui. Può anche succedere una cosa negativa in Italia. David Stern, come tutti i grandi, come Gary Bettman con la NHL, vivono come C-League nel baseball, come commissario dell'NFL, vivono in paura di queste cose qua, e noi siamo sull'orlo di questo. Questa è la mia paura. Poi ragione Marco, bisogna fissare gli obiettivi, bisogna essere ottimista. Io o questa volta ho un po' di paura, dico la verità. Sì, però cosa, siamo italiani e quindi un po' tutti stiamo pensando, ma sì, adesso si scontrano, si azzuffano, poi in qualche modo le cose si aggiustano. Poi in qualche modo le cose si aggiustano. Speriamo. È chiaro che, come dice Marco, bisogna avere presenti gli obiettivi, no? Perché qui stiamo discutendo di un extracomunitario in più, un extracomunitario in meno, stiamo discutendo del protezionismo sempre dei giocatori italiani, no? Sì, tu hai usato la parola. Tu hai usato la parola aggiustare. Io credo che l'importante sia cercare di creare qualche cosa, perché sennò se si mette un pezzettino di scotch, un pezzettino di bostica la volta dopo, e poi ci sarà sempre qualche cosa che non funziona. Io credo che anche la tutela dei giocatori italiani per dare un'identità al campionato italiano, siamo in Italia, è correttissima. Però poi credo che anche il pensare in un momento di crisi economica a non aumentare la costrizione di spesa, un giocatore europeo costa di più di un giocatore americano e non toglie più o meno spazio a un giocatore italiano. Qual è l'obiettivo? Difendere i giocatori italiani, posti di lavoro per i giocatori italiani, 6, benissimo. Che poi ci siano 4 americani o 3 americani o un 3 europeo, penso che non cambia per i giocatori italiani, cambia però per i budget e per il livello salariale dei club. Ecco, però trovo abbastanza, come dire, poco simpatico il discorso di impedire ai giovani di rispondere alla convocazione alle nazionali giovanili. Cioè, su questo sto più con Meneghin, che dice che, insomma, impedire a un ragazzo di vestire la maglia nazionale non è granché come idea. Io credo che abbiamo, per esempio, noi che non facciamo parte della protesta perché siamo un club di Lega 2, 3 ragazzi convocati alla nazionale 93, e quindi under 16. Io credo che la gioia di questi ragazzi è una gioia che assolutamente non va toccata. Poi, come tutti gli scontri tra sindacato e Confindustria, anche se non è proprio così, certe volte le mosse sono anche non simpatiche e inopportune. Io credo che ci possa, questa sicuramente è un qualche cosa che ha voluto essere proprio una provocazione estrema e che personalmente non condivido. Nemmeno io. E tu, coach? Guarda, è chiaro che questa cosa qui mi ha colpito moltissimo, come dice, come detto qualcuno, colpire i nazionali, quelli grandi, ma non quelli giovani che come detto Marco Crespi, un'esperienza di questo tipo li arricchisce, li motiva, gli dà obiettivi, li fa anche parametri, vedono l'opposizione, sanno dove stanno, la gerarchia, c'è 100.000 cose che vanno insieme, una convocazione ovviamente per nazionali juniores, cadetti, quello che è, magari i nomi sono cambiati adesso, under 19, under 17, eccetera, è una cosa che cambia veramente l'esistenza di un ragazzo come qualsiasi grande esperienza. E ovviamente questo è veramente, però io non voglio prendere parte totalmente della federazione qui, anche la federazione ha detto questo è un ricatto, e Renzi ha sbagliato, e gli arbitri che non ha fatto ricatto, gli altri che non ha fatto ricatto, cioè i giocatori, la Giva, cioè, quindi adesso siamo nel diverbio qui fra queste parti. Questa è la cosa che non mi piace, che non c'è più colloquio, c'è diverbio, e questa è la cosa che poi avete ragione voi, siamo in Italia, si aggiustano tutto alla fine della fiera, però io veramente questa aria che si tira adesso, soprattutto alla vigilia di questo impegno della nazionale, che tra poco, cioè fra 2 mesi, devono giocare veramente la vita contro la Francia, e io in questo qui io temo il peggio anche lì, cioè, quindi io vorrei vedere le cose girare in positivo, e li vedo sempre peggio, non so quando girerà in positivo. Io vorrei vedere tanto. Coach, però Marco Crespi ha ragione quando dice in questo momento si tratta di tenere a galla la barca dal punto di vista economico, Forse. Anche perché, insomma, di casi da Rieti a Capodorlando, eccetera, eccetera, ne abbiamo visti tanti e continuiamo a vederne. Si tratta di tenere a galla la barca a questo punto. Caro, voglio intervenire altre 2 cose. Si parla adesso, non voglio fare nomi, ok? Di società che forse non si iscrivono né alla Serie A né alla Lega 2 quest'anno che viene. Siamo nel 2009! Io non voglio sentire queste cose adesso. Poi parliamo di un secondo dei giocatori italiani, e Marco mi correggerà su questo, però adesso sento Mancinelli sul mercato, ok? Io non voglio fare conti in tasca né a Mancinelli né alla società. Mancinelli però è un giocatore che ha la fortitudo per gli anni di, anche partire da Serragnoli, che prende un fiore di stipendio. E allora vediamo, valutiamo il rendimento di Mancinelli. E le società stanno dicendo, ragione, torto, non so cosa dire, ma io prendo un comunitario, un americano, che mi dà esattamente quello che mi dà Mancinelli, che mi costa un terzo. Marco, sbaglio, perché hai detto tu che forse i comunitari costano di più, eccetera. Correggimi se sbaglio, ti prego. No, lei, coach, non ha sbagliato. Mancinelli ha un valore tecnico significativo. Ma Mancinelli è già tutelato dai 6 posti di lavoro nei roster delle squadre. Sì. Il problema è se inserire, cioè togliere un americano, perché extraeuropei nella maggior parte sono americani, e inserire un europeo con un regolamento alla FIBA e via dicendo. Quindi questo è un discorso che io devo, se si vogliono tutelare gli italiani, si deve essere un numero minimo di giocatori italiani che giocano, diciamo 6. Qualcuno dice, allora se ci sono 6 americani non possono giocare abbastanza, allora mettiamo 7 giocatori italiani, ma gli altri perché non dobbiamo lasciarli liberi? Perché dobbiamo favorire? Ci sono certi giocatori che con i passaporti della comunità europea, poi americani che trovano il passaporto belga e via dicendo, si sono arricchiti anche senza avere le qualità. Bravo Marco, bravo, applauso, bravo, grazie. Questa è la cosa, che siamo sempre sui soldi, eccetera. Marco, sto facendo il lavoro di Carlo qui, però se ci fossi tu capo di tutti i capi, come lo faresti tu la numerazione? 6 più 6, 7 più 5, come lo faresti? 6 più 6, io dico addirittura 7 posti per gli italiani e 5 completamente liberi. Oh, questo è cominciare. Sei d'accordo, coach? Sì. Siamo in 2. Esatto, io sono l'idea di tu, questo comunitario, Bosmanabos, basta, Dio! Cioè, facciamo. Quando io la navo, come ricordo Crespi benissimo, erano 8 italiani e 2 stranieri di qualsiasi provenienza, ok? E avevamo, guarda caso, stranieri di molto più qualità che oggi, tanto per dire. Quindi non so cosa dire. Senti, Cos, poi il discorso lo riapriremo, credo, con gli ascoltatori. 800 24 00 24, vi ricordo, numero verde. Io da te volevo però passare un attimo al campo. Campionati finiti, tutto chiuso, è il momento dei confronti epocali. Quanto pesa Siena nella storia del nostro basket? Interrogano un po' tutti, fanno i confronti con te, con Ettore Messina, ovviamente con la tua Milano, con la Bologna di Ettore Messina, eccetera, eccetera, eccetera. Avreste battuto Siena? Facciamo la squadra con Barry Carroll, o facciamo... È un giochino, un giochino estivo, tanto per rilassarci un attimo. Crespi dentro qui dopo. Quella con Barry Carroll o quella con McAdoo? L'avresti battuto? No, ma io faccio l'ultima squadra e prendo solamente la mia ultima squadra, com'era nell'87, D'Antoni, Premier, Barlo, McAdoo, Meneghinco in panchina, Bargna, Gallinari, Boselli, Pitis. Io gioco contro chiunque e penso di vincere, può essere il mio orgoglio che parla, per 2 punti, ok? Però bisogna dire che Siena, in questa epoca qua, nel terzo millennio, ha fatto strage e storia e merita ogni applauso. Un dominio così non si è stato mai visto, tranne forse il Simmental di Rubini negli anni 60, quando c'era veramente una squadra tutta eccezionale. Però questi ragazzi qua stanno facendo veramente rullo compressore. Manca la dimensione europea forse per andare a paragonarle davvero con queste grandi della storia del basket. E anche la concorrenza, secondo me. Certo. Marco, avete detto 2 cose giustissime. A livello di concorrenza, credo che i meriti di Siena siano una componente altissima di un record che non ha rivali neanche con il passato. Però nel passato c'era almeno una o due società che avevano delle idee chiare. Quest'anno Siena ha dominato, io credo, anche per qualche progetto che nasce, qualche progetto che va confuso, insomma, anche la concorrenza non è stata così determinata, diciamo. Esatto. Poche idee ma confuse, in alcuni casi. E a livello europeo devo dire che Siena non è così imbottita di grandi campioni come altre squadre migliori europee, ma non dimentichiamo che è andata a un passo da eliminare il Panathinaikos, che poi ha trionfato. Quindi, nonostante non abbia delle grandi stelle e dei budget sicuramente inferiori a quelli che possono essere CSKA, Panathinaikos, Barcellona, Olympiacos, è andata veramente vicina. Quindi questo è un altro merito in più. E poi, Marco, non dimenticare che l'anno scorso avevano Maccabi nel semifinale del Final Four sotto di 18, buttato via, e Messina mi ha detto: temevamo, abbiamo avuto paura del Siena in finale. Coach, in un secondo, cosa ne pensi? Lo scrive un ascoltatore via SMS, ti chiede che cosa ne pensi di un'altra notizia di questi giorni: Shaquille O'Neal a Cleveland a cercare in missione per vincere il titolo NBA con LeBron prima della grande rivoluzione del 2010. Puoi dire che io dubito un po', spero per loro che vada bene, però lui ha 36 anni, sempre infortunato, soprappeso, non gioca mai più di 60 partite in una stagione. Se io fossi loro, direi, Shaq, tu giocherai 60 partite, niente back-to-back, niente trasferte lunghe, eccetera. Ti teniamo imbottito in cotone fino ai play-off. C'è bisogno salvaguardare il patrimonio che hanno preso. Se loro pensino di far lui giocare 82 partite a 30 minuti di partita, loro rovineranno il giocatolo. Bisogna centellinare sul gioco, gestirlo, ma non sono del tutto convinto. Poi accentratore, personaggio, non so cosa dire. Io magari sbaglio, perché sbaglio spesso in queste cose, la mia valutazione, però questa è la mia opinione oggi. Coach, grazie, buona estate. Ciao Marco, ciao ragazzi. Buona estate. Ciao. Ehi, non dirmi che questo è l'ultimo puntato, ok? No, non è l'ultima puntata. Ah, okay. Andiamo solo un po' in vacanza. Va bene, ok. Ciao ragazzi. Ciao coach. Grazie. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con noi Marco Crespi, 800240024, vostro numero verde. Io volevo continuare il discorso che faceva cosa su Shaquille O'Neal e magari aggiungere anche quella, la notizia di questi giorni, Belinelli vicino a Phoenix. Cosa ne pensi di queste mosse, coach? Ma io direi, ho lavorato per Phoenix, adesso sono appunto amico, e direi che personalmente per un tipo di basket che aveva portato anche successo i Suns vicini alla finale di conference, e io dico che se Amari Stoudemire e Shaquille O'Neal non sono più con la maglietta Suns, personalmente vivo bene l'estate, perché credo che per un discorso tecnico, un discorso motivazionale, penso che i cicli a livello personale di Shaquille O'Neal e a livello in Phoenix di Amari Stoudemire penso si siano conclusi. Ma cosa ne pensi Shaquille con LeBron? Giusto il discorso che faceva Coach. Tra l'altro c'è un'altra storia di questi giorni, cioè Phil Jackson che potrebbe allenare soltanto le partite in casa. L'NBA è uno spremiagrumi ormai. Questa è curiosa, no, ma sinceramente proprio anche io penso che chi dirige Cleveland abbia un'idea, abbia delle buone idee, abbia fatto tante riflessioni. Io vedere Shaquille che può aiutare LeBron prima che se ne vada, perché il problema è che l'anno prossimo Cleveland vuole prendere un giocatore perché poi hanno paura di perdere LeBron e forse non avrà più occasione per i prossimi 10 anni di vincere un titolo. Ecco, che Shaquille sia l'uomo che aiuta all'ultima chiamata Cleveland a vincere con LeBron James un titolo, io non la vedo. Magari non vedo abbastanza bene. Cosa mancava secondo te invece che un giocatore alla Shaquille O'Neal per fare in modo che Cleveland avesse più chance? Ma credo che mancava un po' di talento, cioè i giocatori lunghi, Varejao è un giocatore sicuramente, un animale, uno che picchia e così, però poco talento. Il Gauskas è un giocatore altrettanto lento come Shaquille. Io credo che, e infatti hanno sofferto quello quando hanno giocato contro Orlando, la dimensione a quattro piccoli e l'atletismo di Howard. E quindi credo che lì hanno messo, cioè hanno scelto, non cerchiamo, siamo stati meno atletici, cerchiamo più atletismo, ma cerchiamo di schiacciare l'atletismo in modo tale che non possa partecipare. Tanto ecco. Arriverà anche Rashid Wallace, giusto per togliersi dei dubbi, pare. Allora lì è proprio come le scommesse, cioè voglio dire, rischio altissimo, se va bene è titolo. Torniamo alle cose italiane, perché abbiamo un ospite importante. Saluto e ringrazio Livio Proli, presidente e amministratore delegato dell'Armani Milano. Buon pomeriggio, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io voglio chiederle subito la posizione sua personale e quindi di Milano nella questa battaglia di cui stavamo parlando tra Lega e Federazione. La sua idea, la sua posizione qual è? Innanzitutto volevo fare una premessa, mi dispiace anche parlarne, perché credo che in questo momento la cosa più utile e più intelligente sarebbe quella di spegnere e smorzare un po' i toni della querela in corso. La mia posizione è quella di tutti i colleghi che rappresentano e gestiscono le società sportive, perché il nostro grido è un grido d'allarme, è un grido, se vogliamo, anche forse smisurato, perché andiamo a toccare quello che è il rapporto di giovani atleti rispetto alla nazionale. Però è chiaro che è un'azione drammatica che bisogna fare il giorno prima di morire, perché in una situazione in cui il sistema sta asfitticamente arrivando alla rovina, e questa cosa è nota a tutti, ma nessuno la vuole andare ad analizzare, sviscerare alla radice, ecco, allora di fronte a una situazione di questo tipo la reazione forte, anche se vogliamo un po' smisurata, ci sta, e io sono allineato con tutti i presidenti della società e con il presidente Renzi. Sì, come diceva prima Marco Crespi, si può anche arrivare allo scontro, ma si tratta di avere le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere. Ma tra l'altro questo che è una cosa molto, molto strana, perché per la prima volta, io credo, la negoziazione tra le parti si è svolta con una comunione di intenti, perché così come la federazione, la GIBA, hanno a cuore il fatto di rivalutare i giocatori italiani e di ridare lustro alla nazionale, quindi noi lo siamo altrettanto. Il problema è il modo col quale arrivare al risultato, cioè la pianificazione e la programmazione di questa ricostruzione del mondo dei giocatori italiani. Contemporaneamente alla necessità quindi di tempistiche chiare e di modalità chiare, ci sono anche poi delle tecniche importanti per sostenere poi l'investimento di operazioni di questo tipo. Certo. In un momento, ripeto, dove la voce ricavi per tutti, per tutte le società sportive di questo momento, non solo del basket, la voce ricavi da sponsorizzazioni e da varie attività stanno drammaticamente crollando per la nota crisi internazionale, certo, di cui non devo, certo, credo, spiegare nulla. Marco, che ne pensi? No, io penso che sono state dette parole giustissime. Io credo che l'obiettivo principale è far sì che possa esistere il sistema professionistico. Se esiste il sistema professionistico, esisteranno tanti bambini che giocano nelle palestre, che deve essere l'obiettivo della federazione. Io credo che le regole di un sistema professionistico se le deve dare la Lega. La federazione dovrebbe occuparsi di nazionale e di promozione. Fin quando non si divideranno questi compiti e questi obiettivi, ci sarà sempre da litigare sul nulla, perché io non capisco come un consigliere federale possa occuparsi e parlare come un uomo d'azienda, come il presidente Armani Jeans, sulle stesse tematiche. È impossibile. Dottor Prodi, cosa resta dopo questa prima stagione milanese? Ma mi resta la buona sensazione di aver intrapreso il cammino nel modo giusto. Ci resta, e questa cosa ci dà molto entusiasmo, ci resta la consapevolezza di aver avvicinato la società, la squadra e ai tifosi milanesi. Sì. Ci resta anche un minimo di angoscia costruttiva, che rispetto al fatto che partiti già dal primo anno con questo livello di risultati, l'asticella del prossimo anno sarà ancora più alta. Bisognerebbe fare meglio. Quindi saremo tutti spronati a fare meglio. Ma va bene, tanto sappiamo benissimo, dal primo giorno che abbiamo iniziato questa avventura sapevamo che dobbiamo cercare sempre di raggiungere il meglio giorno dopo giorno in una lotta infinita all'eccellenza, quindi sensazioni piacevoli e molta molta adrenalina e ottimismo e grinta per la prossima stagione. Ecco, dottor Prodi, quello che in tanti invidiano a Siena è proprio, a parte chiaramente non stiamo facendo discorsi economici, ma è proprio il concetto di progettualità nel corso degli anni. Siena, di questa Siena, è il risultato del lavoro di diverse stagioni. Ecco, Milano sta cominciando ad intraprendere un cammino di questo tipo. Ma senz'altro, la base del nostro progetto credo che raccolga tutte quelle sono le caratteristiche del progetto di Siena, nella misura in cui comunque abbiamo organizzato, abbiamo iniziato un progetto che deve evolvere nella continuità, fare piccoli passi, piccoli o grandi che siano, ma sempre in coerenza, continuità con quello fatto precedentemente. Abbiamo bisogno quindi di conservare il meglio prodotto quest'anno e andarlo a sublimare con dei piccoli interventi di adattamento, quindi credo che la dorsale del nostro progetto sia un po' quello di Siena. Chiaramente da loro c'è un qualcosa che noi non potremo comprare, non potremo accelerare, cioè le tempistiche, il tempo. Loro hanno avuto a disposizione tanti anni, quindi tempo giusto, soldi giusti, competenza giusta, e questo è il cocktail vincente. Diciamo che noi speriamo di aver azzeccato due dei tre fattori. Sul fattore tempo mi rendo conto che c'è poco da fare, anche se questa prima stagione ci obbliga a un'accelerazione sui fronti, che però è un'accelerazione che non ci porterà a tradire il nostro passo. Non faremo spese folli, anche perché obiettivamente siamo in un momento in cui a livello socio-economico le spese folli non avrebbero alcun senso e alcuna giustificazione, però cercheremo di mirarci con i passi giusti e con determinazione e con la consapevolezza che poi qualsiasi cosa accada sapremo sempre reagire in modo forte. Senta, le chiedo ancora questo, sul campo Vitali è stato il centro del vostro progetto iniziale, molto giovane, annata difficile anche nel rapporto con il pubblico, almeno nel finale, rimarrà a Milano? Ma guardi, colgo l'occasione di questa domanda per fare una piccola puntualizzazione. Cioè, Luca, quando è stato preso a inizio d'anno, è stato preso, ha fatto molta notizia perché è un talentuoso, è un italiano, ma non è stato preso come il motore unico indispensabile del progetto. Anzi, se vi ricordate bene, nelle dichiarazioni iniziali noi dicemmo subito che volevamo fare 12 gladiatori, quindi una squadra, una società dove la leadership fosse trasversale e condivisa da tutti gli elementi. Quindi già questo fatto, forse noi l'abbiamo comunicato male, sicuramente ha portato molta pressione e aspettativa sul giocatore, che ricordo molto giovane, quindi questo può darsi che nell'arco dello svolgersi della stagione abbia determinato qualche situazione, diciamo, non bella, sì, ma anche per lui, perché credo che per un giovane che lavora, che è venuto con grandi aspettative, subire le bordate di fischi come ha subito ogni tanto non sia stata una cosa positiva. Per quanto riguarda invece la domanda, la parte seconda della domanda, se Luca Vitali rimarrà a Milano, è in discussione in questi giorni fra le parti, perché Luca è un patrimonio nostro, ha un contratto pluriennale, quindi dobbiamo studiare insieme a lui quello che può essere la stagione di recupero della sua prestazione psicofisica, perché chiaramente è una stagione dove lui stesso credo non sia soddisfattissimo, anche se ricordo ha fatto un'ottima prima parte di stagione. Ricordo tutti anche la partita col Pannonios dove lui ci ha regalato, tra virgolette, la qualificazione nella top 16. Certo. Quindi sicuramente ci sono tanti punti su cui ripartire. Non vi so dire oggi se la ripartenza, se l'anno sabbatico verrà fatto a Milano o da qualche altra parte, perché comunque è un progetto di ricostruzione che stiamo negoziando assieme al ragazzo. Quindi vedremo poi a breve gli sviluppi della cosa. Grazie davvero per il suo intervento. A presto. Grazie, saluto tutti. Arrivederci, buon pomeriggio. Grazie davvero a Livio Proli, presidente dell'Armani Milano. Palla spicchi. Ecco, torniamo sempre con noi Marco Crespi e c'è Mauro da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Dica. Io sono un semplice appassionato, una piccola premessa, perché altrimenti magari quello che dico dopo potrebbe essere frainteso se qualcuno potesse pensare che avessi degli interessi. Sì. Volevo porre a voi, che stimo perché vi ho seguito sempre, vi seguo sempre perché appunto da appassionato mi interessa sentire tutto quello che riguarda il basket, il vostro autorevole parere. È vero o non è vero che le squadre di basket, le società sportive professionistiche di basket non guadagnano? È vero o non è vero che i bilanci sono tirati? Perché ho quasi il dubbio che il presidente federale, da uomo di così grande esperienza, abbia qualche informazione per cui non è vero che i bilanci sono così difficili. Perché dubito. Non capisco come possa pensare che laddove un giocatore italiano, a livello di un giocatore extracomunitario, in particolare americano, non nascondiamoci dietro un dito, a parità di valore costa molto di più, non so come possa pensare che il movimento professionistico italiano possa andare avanti. Convinto io come sono, come ha detto Marco, che senza il traino del movimento settimanale, infrasettimanale delle società professionistiche, tutto il movimento crolla. Certo. Senza questo traino, il traino delle televisioni, del lavoro di questi anni importante di Sky, che ci ha consentito a un appassionato di vedere 3 partite, 4 partite alla settimana, anche il movimento giovanile crolla. Ma certo che è così. Un uomo di questa esperienza come fa a pensare che imponendo un aggravamento dei costi, perché questo è imporre dei giocatori italiani o anche comunitari in più, come possa il movimento professionistico andare avanti? Come fa un uomo di esperienza come Meneghin a pensarlo? Dopodiché, e concludo il mio pensiero, probabilmente si devono obbligare le società professionistiche a investire nei giovani in qualche percentuale dei loro ricavi, ma non si può chiedere di morire, perché quest'anno, se non sbaglio, ultima cosa, sono aumentati, se non sbaglio, gli spettatori delle partite di basket, nonostante c'è stato ancora un piccolo aumento degli spettatori, piccolo ma significativo, perché il trend è quello, anche se non siamo ai livelli che abbiamo vissuto in altre ere, in altre epoche, però da questo punto di vista il basket malissimo non sta. Marco, cosa ne pensi dell'osservazione dell'ascoltatore? Ma io penso che ogni società di basket spende di più di quante sono le risorse in entrata. Questo, io credo che ogni società professionistica di basket, di calcio, di pallavolo in Italia, questa è la realtà. E poi ci sono i soci che capitalizzano e ricapitalizzano per coprire i buchi che può essere un singolo proprietario o tanti proprietari. Questa è la realtà. E quindi credo che davanti a una crisi mondiale come quella di adesso, che diminuisce, contrae in quanta percentuale dipende dalle situazioni, dai contatti dei singoli soci, le entrate a livello di sponsorizzazioni, creare un aggravio a livello economico sia qualcosa di un pochettino illogico. Preoccupante anche leggere, ad esempio, Sabatini dice non possiamo più investire i soldi che abbiamo investito fin qui nel settore giovanile. La preoccupazione è che si comincia a tagliare da lì. Sì, io credo che a livello emotivo un presidente che mette dei soldi, perde dei soldi, mette dei soldi a fondo perso in una squadra di pallacanestro, a livello emotivo immediato dice io voglio vincere il campionato, non voglio cercare di fare, al di là del discorso sociale, costruire nel mio vivaio dei giovani che saranno pronti tra 7 anni. Questo mi sembra normale, e anche questo va a ritenuto, cioè i proprietari si affacciano per diventare presidenti della squadra di pallacanestro che fa una serie professionistica. I migliori vivai comunque continuano a essere quelli delle società professionistiche, perché hanno più dedizione, hanno persone che si dedicano a tempo pieno, hanno più risorse, e quindi attenzione che togliere l'emozione aumentando i costi ai proprietari significa anche poi automaticamente, senza nessuna volontà precisa, poi ridurre quanto sono gli investimenti nel settore giovanile. Sì, la domanda che mi viene spontanea, probabilmente una domanda banale anche abbastanza così, è il motivo per cui gli italiani non collaborino in questo senso, perché basterebbe semplicemente che limitassero un po' le pretese. Stiamo parlando di giocatori. Sì, di giocatori italiani. Cioè, il popolo italiano. No, gli italiani no, è perfettamente. I giocatori italiani sono quei, cioè, abbiamo parlato di federazione, di lega, ma di giocatori non ne parliamo. Sì, ma io credo che poi ovviamente quando si parla di una domanda, di un'offerta, di ottenere un salario, ognuno, la gente fa il suo lavoro, il giocatore insieme alla gente vuole ottenere qualcosa dalla società. Io credo che sempre deve valere la regola che quando si fa un qualsiasi affare bisogna essere contenti in due, e questo, ma credo che qui l'affare principale sia per agenti, giocatori, società, federazione, che continui a vivere il settore professionistico, sennò poi non parleremo più di nulla, ecco. Roberto Firenze, buongiorno. Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Dica. Sempre a proposito delle quote tricolori, quote europee, quote extracomunitarie. Io sono assolutamente contrario. Più che dare delle motivazioni, vorrei fare un esempio. Se oggi, visto che è il fatto del giorno, andiamo in un negozio di CD, di musica, e vogliamo acquistare 12 CD di Michael Jackson, sarebbe buffo che il negoziante dicesse no, 12 di Michael Jackson non puoi, ne devi comprare 6 italiani, 3 comunitari, a tua scelta, 6 inglesi o rumeni, sempre comunitari sono, e 3 americani. Sì. Ecco, per la musica mi sembra una stupidaggine, nonostante gli indubbi vantaggi avrebbe l'industria discografica italiana, l'occupazione del settore, l'allevamento di campioni italiani di musica, avremmo un meraviglioso Sanremo, eccetera, però mi sembrerebbe una stupidaggine. Per il basket mi sembra lo stesso. La sua osservazione è molto intelligente, Roberto. Beh, direi che è una brillantissima immagine che non avevo mai sentito con tante esemplificazioni, quindi complimenti a lei. È veramente è un qualcosa, mettere troppe riduzioni è qualcosa che va contro il mondo globale, contro la direzione del sistema economico. Poi è ovvio che siamo in Italia, tutti hanno piacere di vedere un campionato che ha un'identità identità italiana, però poniamoci il problema che tutti hanno piacere di vedere un campionato professionistico, sottolineo ancora una volta questo. La parola professionistico sottolineiamo, perché se è professionista, professionismo deve essere tale, non avrebbe senso. Immaginati se la NBA riducesse il numero dei importi. Quest'anno facciamo venire solo 8 giocatori dall'Europa, gli altri non li vogliamo. Esatto. Io poi credo che l'NBA ha dimostrato che aprirsi significa anche aprirsi a tanti mercati. Faccio un esempio sciocco, ma se fossi una squadra di A1 dove c'è la possibilità di firmare 5 giocatori extraeuropei senza nessuna limitazione, io come direttore del Basket Operation subito cerco di andare a prendere, ovviamente con un minimo di validità tecnica, un giocatore giapponese, perché un giocatore giapponese mi può portare tante di quelle risorse, un'attenzione mediatica che benissimo, gli altri 4 saranno quelli forti, questo mi porta delle risorse. Ma credo che questo nello sport professionistico, al di là della battuta, sia anche qualcosa di illuminato. Dunque, Luca Bologna, buongiorno. Buongiorno, avevo 2 domande per voi. Prego. La prima era cosa ne pensate della situazione della Virtus, per la quale io tifo, perché mi sembra che ci sta andando un po' troppo per le lunghe. E la seconda è se gentilmente sapete... Aspetti, per le lunghe in che senso? Nel senso che se alla fine la tiene Sabatini un conto, se arrivano questi nuovi un altro... No, ha chiuso la trattativa Sabatini. Ah, ha detto no, abbiamo scherzato. Cui... Abbiamo scherzato, non ci sono proposte vere, non so chi sono, tutto finito. Poi? L'altra è, se, visto che voi parlate anche a livello nazionale, se avete delle notizie in merito alla Sebastiani Rieti, come è messa adesso? Grazie. A lei Luca, Sebastiani Rieti qualche problemino ce l'ha ancora. Sì, però avrà uno sponsor che credo sia l'ACEA e che probabilmente le consentirà o quantomeno le potrebbe consentire di partire da una situazione meno problematica rispetto a quella che poteva avere invece la scorsa stagione. Cioè dopo quello che è successo quest'anno sembra che grazie alla regione, grazie alle istituzioni e a questo sponsor Rieti si possa anche presentare regolarmente i nastri di partenza. Poi noi stiamo usando il condizionale perché chiaramente potrei essere smentito comunque... fra 2 secondi e mezzo, però insomma questa è la situazione attuale. Ma comunque c'è una data, il 6 luglio ci saranno tutte le iscrizioni, le situazioni a livello di bilancio, quindi il 6 luglio, al di là di come ognuno comunica il suo malessere economico, se il 6 luglio è abbastanza un giorno dove si tirano le somme. Sì, anche se anche qui abbiamo delle esperienze sulla tassatività dei termini. Esatto. Palla spicchi. Ecco che torniamo, io giro a Marco Crespi questo messaggio di Stefano, che Marco ti saluta. Indimenticabile il Dream Team da lui guidato in Lega 2, 30 vittorie su 36 con un Granger insuperabile. Un bel ricordo di una città innamorata di quella del basket, come dimostra anche adesso, di quella stagione dove si era veramente invincibile, anche di giocatori come Antonio Granger, che sono stati credo grandissimi talento, e che purtroppo la scorsa stagione non ha giocato perché per un problema al ginocchio ha dovuto ritirarsi avendo solo 32 anni. Senti, invece in questa stagione cosa ti resta? Soddisfazione o la rabbia non ancora smaltita per una battaglia lunghissima contro Cremona, che poi è andata al piano di sopra, persa per questione di millimetri, di decimi di secondo, di dettagli infinitesimali? Io penso in gara 3, in gara 5, a distanza di 4 giorni, 2 episodi che è difficile trovare in una stagione, figuriamoci ravvicinati in 4 giorni. Però proprio dopo 24 ore sinceramente di agonia, ok, mi sono detto no, questo è anche il fatto bisogna dimostrare di è forza, accettare quello che vuole il fatto, e quindi credo che rimanga una stagione positiva, la crescita di giocatori, la passione di una città, l'interesse di una società che ha voluto ricapitalizzare, la conferma lo sponsor FASP, quindi sono tutte cose che rimangono, e quindi direi che dopo 24 ore di agonia bisogna accettare e si pensa al futuro. Cosa c'è nel futuro? Nel futuro credo di avere realisticamente, in base alle risorse che avremo a disposizione, magari leggermente meno risorse che costringeranno ad avere più idee, però sempre un progetto ambizioso che vuole guardare al sogno della serie superiore. La Lega 2 come sta nel complesso? Perché tanto abbiamo parlato della Serie A, però anche in Lega 2 ci sono situazioni difficili, ci sono delle deadline che guardate con preoccupazione da molti club, la situazione è piuttosto difficile da leggere. Io credo che non sia il momento del basket negativo, è il momento dell'economia mondiale, questo mi sembra quasi scontato, ma è reale. E quindi che il basket ne soffre, il basket vive soprattutto di sponsorizzazioni oppure di soci che vogliono mettere nel basket quello che guadagnano. Tutti guadagnano di meno e il basket ne soffre sicuramente perché ci sono meno risorse. A livello di Lega 2 credo che la situazione unica veramente difficile quella sia di Livorno, però tante volte la comunicazione, certe volte si piange anche un po' per ottenere qualcosa in più, quindi quando veramente chiuderanno le iscrizioni, verranno esaminati i libri contabili, allora solo lì sapremo esattamente le cose. Importante fare seriamente questo tipo di lavoro, perché parlavamo prima di Rieti, però insomma Rieti è da anni che ha un sacco di problemi e ogni volta arriva ad avere un l'ultimo soffio di vita nel corso del campionato, altro buco, poi ripianato. Insomma, io credo che queste siano situazioni da evitare, con tutto il bene che voglio a Rieti, situazioni da evitare, quella di Rieti, come quelle che ci sono state anche in Lega 2, da Roseto in Serie A con Udine. Insomma, tante squadre in difficoltà, ma pubblica, conclamata, dichiarata, profonda, da anni. Queste sono situazioni che vanno evitate, secondo me. Pasquale, Roma, buongiorno. Buongiorno a lei dottore, sento una cortesia, innanzitutto due cose, per quanto riguarda il basket io penso che al di là di un professionismo, diciamo così, che pretenderebbe spettacolo, tutto cosa, io penso che sia anche giusto limitarne anche il numero, perché altrimenti veramente, io do ragione a Merichina, non si ha la possibilità di poter coltivare a un certo livello i giocatori, giocatori anche italiani che ci rappresentano anche a livello internazionale. Poi una domanda, dottore, per quale motivo io sono rimasto scandalizzato dal comportamento di questa nazionale, alla quale sono molto affezionato, nazionale di calcio, ma è possibile che dopo una situazione del genere, che penso che abbia avuto anche le sue colpe l'allenatore, non abbia perlomeno, sembra che tutto sia, dipendeva tutto dai giocatori, sia tutto quanto normale, invece è mancato l'impegno, è mancato la cosa, no, l'impegno, un cenno di dimissioni. No, ma l'impegno no di sicuro, perché quelli che sono andati l'anno scorso a quella... l'avventura ha fatto tutto quello che era possibile fare realisticamente. È chiaro che l'obiettivo della partecipazione ai campionati europei per una nazione come quella italiana deve essere l'obiettivo minimo, no Marco? Sì, assolutamente. Io credo che la produzione anche tecnica del sistema basket italiano può far sì che si possa competere sempre con grandi speranze di successo alla partecipazione agli europei, questo sì. Alan, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, io vi faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Poi volevo intervenire sulla Virtus Bologna. Prego. E dire che sono sconvolto dal nostro presidente, perché secondo me di basket non ne ha mai mangiato. Mm-hmm. Voi cosa ne pensate? Ma no, non so. Che ha sempre delle grandi idee. Quello sì, cioè se tu ci pensi, di Sabatini si può dire tutto tranne che non abbia delle idee. Tranne delle che non faccia parlare di sé. Esatto, e soprattutto ha un modo di esporle anche abbastanza, insomma... Sì, sì. Esatto. È molto bravo nel far parlare di sé. Secondo me la squadra di la Virtus Bologna di quest'anno era uno squadrone. Secondo me era tecnicamente l'unica in grado di poter, non ti dico competere, però di regalarci una serie di finale... davvero equilibrata. Poi non è successo così per mille un motivo, comprese le dispute tra Sabatini e il suo allenatore del momento su questioni varie. Tu cosa ne pensi dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico è una squadra molto intrigante, perché penso che fosse la squadra che poteva giocare più veloce di Siena. Sì. Era l'unica squadra del campionato italiano, anche perché Siena la devi battere avendo una tua caratteristica peculiare. Certo. Avere anche Cheryl Ford a 5 con le accelerazioni da Boyk, e tutti gli altri, credo che potesse essere veramente la squadra che, se arrivava in un momento di unione di compattezza tecnica, poteva arrivare a sfidare con più convinzione negli occhi Siena. Si vedeva, io l'ho visto a Bologna in quella partita di regular season, poi decisa in quel modo che ci ricordiamo tutti con quel fallo di Boyk, insomma, che intera l'ultimo secondo. Lì si capiva che tecnicamente era una squadra che Siena poteva digerire male, con i penetratori Langford, gli atleti esterni che potevano dar fastidio comunque alla difesa di Siena. Sì, infatti quello che tu dici è giustissimo, non solo la partita di stagione regolare, ma nella finale dove c'era un titolo di Coppa Italia, la Virtus Bologna andò vicinissima, e quindi credo marcare Langford, marcare Terry, marcare Cheryl Ford costringeva Siena a non usare le stesse regole difensive. Io credo che questo sia un esempio di come la chimica anche di spogliatoio sia certe volte devastante quando non la trovi, perché di questo si può parlare credo in maniera anche abbastanza palese per la Virtus di quest'anno, cioè mancata un po' di coesione all'interno dello spogliatoio e a livello di rapporti. Io credo che sempre lo sport ti può sorprendere, il fatto di Boykin se ne va, torna, il fatto che Bonicioli già durante la stagione si sapeva non sarebbe stato l'allenatore dell'annata successiva, provoca sicuramente un qualche cosa in spogliatoio. Poi può essere negativo, forse in questo caso lo è stato, positivo. Io ricordo ai tempi mio assistentato di Tanjevic a Milano, perdiamo la Coppa Korać contro l'Alba Berlino, sicuramente Tanjevic sa che non rimarrà l'allenatore la stagione successiva, vinciamo poi Coppa Italia campionato con una sensazione di imbattibilità. Quindi le reazioni nello sport come nella vita non puoi mai preventivare. Marco, vorrei chiederti ancora un'opinione prima di chiudere su altra notizia della notte, quella del draft. Draft NBA con Blake Griffin, pronosticatissima prima scelta, con Ricky Rubio che finisce con il numero 5 a Minnesota, con Brandon Jennings scelta numero, chiamato col pick numero 10, Daniel Hackett molto molto molto basso. Non c'è un sogno americano, un sogno NBA per Daniel Hackett. Io, Daniel, che penso che passerà i prossimi 3 anni con la Benetton Treviso, e credo che è una scelta giusta. Potrà molto migliorare, potrà verificarsi, e poi voglio dire, non dimentichiamo che Ginobili, che è diventato quasi un MVP della Lega NBA, è andato quando aveva 27 anni, quindi penso che non andarci subito può essere anche un vantaggio. E Rubio? Rubio è un giocatore molto interessante, forse un giocatore che di solito si dice dei giocatori europei giovani hanno molto upside, molto margine di miglioramento. Lui è talmente intelligente che è già a un livello dove non avrà molto upside. Bene, chiudiamo qui. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie anche a Flavio Suardi. Adesso vi racconto un paio di cose invece di Confederation Cup. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. Confederation Cup, che già vi anticipo così, vi riassumo la scaletta del fine settimana, ne parleremo abbondantemente domani, aspettando la finale, programma del sabato dalle 17 alle 18 come sempre. Domenica vi fisso già gli appuntamenti 17-19, quindi dalle 20.15 alle 20.30, e poi seguiremo la finale dalle 22 fino alle 23, quindi con il programma serale completo. Una finale che sarà del tutto inedita. Brasile contro Stati Uniti. Stati Uniti, la grande sorpresa, ha eliminato la Spagna. Ieri sera siamo andati vicinissimi alla sorpresa ancora più grande dell'eliminazione del Brasile da parte del Sudafrica. Squadra molto interessante, forse con scarso peso offensivo, però è servito una punizione di Dani Alves a 2 minuti dalla fine per scrivere questa finale che domenica, vi ricordo, vivremo insieme. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Con lo sport ci sentiamo domani alle 17. Confederation Cup, a un anno dal mondiale, in collaborazione con... Nasce nuova Nissan Pixo. Facile da scegliere, facile da avere. Tua da 5.790 euro con rottamazione, senza anticipo, da 95 euro al mese con 5 anni di garanzia. TAEG 10,52%, fino al 30 giugno. Scopri Nissan Pixo, fino alle 22 da giovedì a sabato dai concessionari Nissan.